Roma Trastevere, 30 gennaio 1974. Care Eleuterio, la casa che ascoltò mia sorellina e me cantare spensierate canzoni giovanili, oggi ascolta i nostri tristi discorsi di donne affrante. Sto bevendo il mio solito cappuccino e io penso che il cappuccino è la conseguenza dell'amore fra due bevande antirazziste. E penso anche che sei un ritardato mentale, Eleuterio. La crisi energetica riguarda tutti e bisogna cercare di superarla nel modo migliore, senza liti, sempre tua. Roma Farioli, 31 gennaio 1974. Inevitabile, sempre mia. La casa che ascoltò tua sorellina e te cantare canzoni giovanili deve aver ascoltato nello stesso periodo anche i primi sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli, che da un conteggio approssimativo deve essere stato compagno di scuola di tua sorella. La crisi energetica è un fatto e sono perfettamente d'accordo con le regole stabilite dalle autorità. Io contesto le tue regole aggiuntive, nei confronti delle quali mi dichiaro decisamente contro. Eleuterio. Poi scritto. Il figlio della portinaia sostiene che secondo i testi scolastici i pachidermi non parlano. Prega tua sorella di passare da queste parti. Non posso permettere che un bambino abbia idee sbagliate. Roma Trastevere, 1 febbraio 1974. Care Eleuterio, randagio. Siccome sono randagi anche i cani, io non specifico e tu resti nel dubbio. Mia sorellina ha casualmente letto la tua lettera prima di darmela. Credo che incominci a pensare che tu non hai simpatia per lei. Si è un po' arrabbiata e si è chiusa in cucina a preparare le polpette. Dice che voleva vedere come diventeresti se ti potesse avere fra le manine per 10 minuti. Il gatto dorme sul puff vicino a me. Io penso che il puff è l'incompiuta del fabbricante di poltrone. Insisterò con tutte le mie forze per farti accettare le restrizioni imposte da mia sorellina e da me per superare la crisi energetica, sempre tua. Roma Farioli, 2 febbraio 1974. Incontenibile, sempre mia. La solitudine mi rende nervoso. Quando sei qui e ti vedo, non posso fare a meno di pensare a come sarebbe stata bella la mia vita se non ti avessi sposato. Tu non ci sei, mi manca lo spunto per sognare cose piacevoli e vivere, guardandoti, dolci rimpianti. Torna. Anche perché qui succedono cose strane. Qualcuno deve aver rotto la caffettiera. Dopo un po' che è sul fuoco, diventa rossa e il caffè non scende. Eleuterio. Poi scritto. La portinaia ha risolto il mistero della caffettiera. Dice che bisogna metterci dentro l'acqua perché non diventi incandescente e perché esca il caffè. Roma Parioli, 3 febbraio 1974. Caro Eleuterio, micione, sono di nuovo nella casa 50-50, vale a dire al 50% mia e al 50% tua, che però è mia al 100% perché la donna di casa sono io. E se io sono la donna della casa, vuol dire che la casa è della donna. Ho tolto la camicia bianca che era nel pullover grigio, che era nella giacca blu. Eleuterio, perché quando ti spogli non ti levi una cosa alla volta? Guardo con affetto la tua scrivania. Io penso che la scrivania è un tavolo che per meriti personali è stato assegnato a lavori di concetto. Penso anche alla nostra ultima lite della quale ricordo tutto, anche i particolari. Sei entrato nello studio e ti sei messo a gridare come un pazzo. Ma che cos'è quell'aggeggio sulla mia scrivania? Si può sapere che diavolo è? Eleuterio, quell'aggeggio non è un aggeggio, è la macchina da scrivere del povero papà. E perché la macchina da scrivere del povero papà non sta al museo? Dove sta la mia macchina da scrivere? È chiusa in cantina, Eleuterio, e stai calmo. La tua macchina da scrivere è elettrica. E allora? C'è la crisi energetica, Eleuterio, e così abbiamo deciso che non devi consumare corrente. Naturalmente, quando dici abbiamo, vuoi dire tu e quel dirigibile in posizione verticale che chiami sorellina. Appunto, e se ti azzardi ancora a chiamarla dirigibile in posizione verticale, ti dimostro la fragilità di un fiasco di vino sbattuto sulla tua testa. E vicino alla macchina da scrivere del povero papà c'è una candela al posto del lume. Perché? Perché sì, non pretenderai di scrivere con una macchina antica accendendo un lume moderno. Senti, io adesso esco. Tu chiami Radames e rimetti tutto a posto. Se quando ritorno non trovo tutto come prima, ti faccio vedere che cosa riesce a combinare un uomo saggio con una mazza da golf e due sorelline incoscienti. Dammi il vestito grigio. È macchiato. Smacchialo e dammelo. Non si può consumare benzina per smacchiare un vestito, Eleuterio. E poi anche volendo in casa non c'è benzina. Fatela prestare dal vicino. Il vicino è arabo, Eleuterio. Se gli chiedo benzina magari pretende in cambio assistenza tecnica. E da tre giorni ha il bagno ostruito. Io non me la sento. Hai ragione, io vado dal vicino di casa con la fotografia del Mosè di Michelangelo. La strappo a pezzettini e li calpesto per dimostrargli che non sono amico degli israeliani. Mi faccio prestare mezzo litro di benzina, ti do fuoco e ti dimostro che anche la mia imminente vedovanza è legata strettamente al petrolio. Ha ragione mia sorella quando dice che sei un assassino. Tua sorella non è mai precisa, sono un dupli assassino. Voglio il vestito smacchiato, le scarpe con la suola di gomma, la macchina da scrivere elettrica e il mio lume, subito! Niente affatto! Eleuterio, metti giù quella cassapanca! Ma certo che la metto giù, come mi capiti a tiro la metto giù! No, metti giù quella cassa, Eleuterio, Eleuterio, me ne vado! Non credo che ci riuscirai, vieni qui! Ricordo tutto perfettamente, ma quando rientrerai farò come se non fosse successo niente. Ciao. Ciao, Eleuterio, micione. Mi diceva mia sorellina che sarebbe il caso di ristrutturare il tuo sistema monetario che sembra indirizzato a una inevitabile...